A tempo di sport. Rieccoci qui, aveva ragione Massimo Di Scienza. Avevamo lasciato la Roma sul 2-1, dandovi in diretta in precedenza il gol di Amauri. Ebbene, Amauri ha colpito di nuovo. Sembra quasi che sia sufficiente svestire la maglia bianconera per rifiorire, maglia bianconera della Juventus. È fiorita invece l'Udinese a Palermo, ha trasformato Palermo in una specie di parco giochi per i suoi attaccanti. 0-7 è finita dunque così. Nel finale l'Udinese, tra l'altro, in 9 contro 11 non ha infierito. E dunque 4 volte Sanchez, 3 di Natale per questo risultato che clamoroso è dir poco. La Fiorentina non riesce a vincere a Bari perché il Bari pareggia a 2 minuti dalla fine con il gol più bello della giornata, lo segna Ghezzal. 2-2 tra Brescia e Lecce, tra le polemiche perché al 92esimo è stato annullato un gol a Caracciolo in mischia per un fuorigioco che in realtà non c'era. La Lazio perde 1-0 a Cagliari. Il Cesena, anche qui al 90esimo e anche qui di rigore, vince con il Chievo il confronto salvezza, che riguarda in realtà più il Cesena del Chievo, gol di Gimenez. Questi risultati, tra poco parliamo di tutto ciò che ha proposto questa giornata e tutto ciò che proporrà poi stasera e domani con Inter e poi Milan-Napoli domani sera. A tra poco. A tempo di sport. Eccoci tornati, Giorgio Drucchi in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, un paio di ore per parlare di questa giornata. Mentre i tifosi dello Juventus Club di Arcinazzo Romano, provincia di Roma, stanno raccogliendo firme per l'esonero di Del Neri, per manifestare a Del Neri la loro mancanza di fiducia, non so se Zamparini avrà bisogno di firme. Shock a Palermo, Palermo trasformato in parco giochi, dicevo prima, per gli attaccanti dell'Udinese. 0-7 è finita questa partita, 0-5 nel primo tempo. Sta parlando degli Orossi, ha detto: tutta la colpa è mia, mi sono fermato dopo in campo per prendere i fischi del pubblico perché i giocatori non c'entrano, sono io che ho preparato male questa partita, neanche avesse giocato la primavera avremmo fatto una figura di questo tipo. Però 0-7 è un risultato che farà discretamente epoca. 0-5 dopo il primo tempo, gol di Di Natale al 10° Sanchez al 19°, di nuovo Sanchez con un doppio passo ronaldesco al 28°, quindi al 40° espulso Bacinovic sul 3-0, dunque Palermo in 10, 41° Di Natale, 42° Sanchez, Guidolin che chiama i suoi e dice: beh, adesso basta, andiamo al riposo. Dopo il riposo, 4° Sanchez per il 6-0, 15° rigore ed espulsione fallo di Darmian sull'imprendibile Armero, trasforma di nuovo Di Natale, 4 più 3 fa 7, una sconfitta di questo tipo non si vedeva da... insomma, abbiamo provato a fare qualche conto statistico, no? Non è il miglior risultato di una squadra in trasferta nel nostro campionato, c'è il risultato più rotondo perché ci sono due precedenti. Sono Venezia-Padova 0-8 nel 49-50 e Genoa-Milan 0-8 nel 54-55. Per gli amanti dei numeri, della statistica e della cabala, chissà se è un segnale, chissà a Napoli come prenderanno questa notizia. 0-5 dopo il primo tempo, c'è un unico precedente del 7 ottobre 56, quando il Napoli chiuse in vantaggio 0-5 a San Siro il primo tempo contro il Milan. Era la quarta giornata di campionato. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, per parlare insieme fino alle 19. Abbiamo un sacco di ospiti, dobbiamo trattare l'argomento Juventus di ieri sera. Oggi i giornali sono andati giù leggeri, soprattutto non so se chi ha visto la prima pagina di Tutto Sport scritto a caratteri che cubitali e dir poco: via tutti questi giocatori del Neri, non sono da Juventus. Ma su questa falsa riga, insomma, un po' tutti gli altri, non con toni così decisi e definiti, però è chiaro che la sconfitta di ieri della Juventus ha rimandato un'immagine di una squadra che a questo punto mette quasi tenerezza, mette quasi tristezza. E qui mi sono venute subito in mente lontane parole di Maradona quando disse: io non voglio che mi chiamino poverino, preferisco figlio di... che poverino. Quindi Juventus oggi dà davvero un'immagine di povertà in ogni senso. Risultati del pomeriggio: la Fiorentina non riesce a vincere a Bari nonostante il vantaggio di Girardino al 21esimo, nel finale 43esimo della ripresa il gol di Ghezzal con un esterno destro al limite dell'area che lo incorona come gol più bello della giornata senza alcuna discussione, compresi i 7 di Palermo. C'era oggi uno degli argomenti del pomeriggio, la prima Roma di Montella all'Olimpico. Ieri Montella aveva chiesto l'aiuto del pubblico, che c'è stato, ma fino a un certo punto. C'era la partita numero 600 di Totti in maglia giallorossa. Totti l'ha benedetta subito con il rigore del vantaggio. Dopo 18 minuti, intervento scomposto di Lucarelli su Taddei, rigore trasformato appunto dal capitano giallorosso oggi in campo dal primo minuto. 36esimo, Juan raddoppia con un tap-in su corta respinta di Mirante, una difesa del Parma quantomeno rivedibile, almeno come piazzamento. Poi nel finale, invece, dicevo prima, basta sfilare la maglietta bianconera della Juventus quest'anno per rifiorire, con tutti i suoi ex, è inutile stare a fare il lungo elenco degli ex che sono andati da un'altra parte per riannodare i fili con certi discorsi. Ebbene, Amauri, 29esimo, deviazione di tacco su cross da destra, 2-1. 34esimo, in mischia con tre difensori della Roma che si incartano a centro area, Amauri segna il 2-2, dunque così finisce 2-2 tra Roma e Parma, e la prima Roma di Montella si trova lo stesso Montella si trova alle prese con certi problemi che aveva avuto Ranieri, che evidentemente Ranieri non si è portato via. Tra l'altro, si è fatto, a proposito di vecchi problemi, oggi si è fatto male di nuovo Pizzarro, che è uscito in barella e dunque non sappiamo al momento per quanto ne avrà. Il Cesena vince una partita determinante per la sua corsa con il Chievo al 44esimo del secondo tempo, 89esimo minuto, trattenuto in area su mischione di Mandelli su Bogdani. Valeri vede un rigore che Jimenez trasforma e dunque il Cesena batte il Chievo. Cade invece, questo è un altro risultato importante per gli equilibri del vertice della classifica, in attesa dell'Inter questa sera sul campo della Sampdoria e soprattutto di Milan-Napoli di domani. Cade la Lazio, sul campo del Cagliari per effetto di un gollonzo, un'autorete di André Diaz su un tiro senza pretese e che non ha nemmeno inquadrato lo specchio della porta di acqua fresca. Classico autogol, 1-0 per il Cagliari su una Lazio non bellissima oggi. 2-2 tra Brescia e Lecce, con il Brescia che va in vantaggio dopo 17 minuti con colpo di testa di Caracciolo su cross di Zambelli, poi al 19esimo segna Zoboli di testa su calcio d'angolo. Sembra fatta per il Lecce, sembra già fatta per il Brescia invece. 30esimo Corvia, 30esimo del primo tempo, e Lecce va sul 2-1. 25esimo Munari direttamente su azione di fallo laterale. Al 92esimo annullato in mischia gol di Caracciolo per un fuorigioco che Morganti vede ma che in realtà non c'era. Montella con Sky. La soluzione la può trovare, insomma, la può capire. Non è una questione di modulo, di uomini, di giocatori, è un dato di fatto. Si è visto un calo da parte della squadra e quindi è tutto abbastanza evidente, insomma. Noi fino a quel momento, fino al 74esimo credo, non avevamo subito un tiro in porta, e poi c'è stato questo calo, insomma, quindi io la leggo così. Quindi vado alla fase successiva. Un allenatore che arriva a febbraio può in qualche modo intervenire sulle gambe del gruppo? No, ma io non ho detto esclusivamente questo. Noi abbiamo bisogno di alzare il ritmo, lo stiamo facendo, c'è la disponibilità dei giocatori, c'è la coscienza anche dei giocatori, quindi anche la disponibilità di conseguenza. Si può fare, abbiamo bisogno di tempo. Certo, giocare ogni tre giorni non ci aiuta, però siamo fiduciosi e metteremo in campo tutte le nostre risorse, le nostre conoscenze per ovviare a questo. Tra l'altro, l'area è uscito il giocatore che in certe fasi poteva essere più importante, Pizzarro, quando c'era da congelare il gioco. Volevo chiedere proprio a Montella, come mia ultima domanda, le condizioni di Pizzarro. Abbiamo visto in panchina, ci dicono che non si sia gonfiato il ginocchio, domani ci saranno gli esami al Policlinico Gemelli. Ha notizie in più? No, vediamo domani che ci dicono gli esami strumentali e aspettiamo, e noi ci auguriamo che non sia nulla di grave. Certo, oggi è mancato molto, si è visto il secondo tempo per tanti motivi, perché riesce a dare ritmo alla partita, a rallentarli, a capire la situazione. Ecco perché non l'avevo tolto a Bologna, nonostante non stesse benissimo, perché è un giocatore che sa dare i tempi, oltre ad avere grandissima qualità. Questo Montella e su Pizarro avrete letto o sentito questa polemichetta o polemicona, interpretatela un po' come volete, tra Ranieri che ha detto qui è stato un inferno, ero l'unico parafulmine, adesso devono dimostrare tutti i giocatori, io mi sono preso le colpe di tutti e il mio errore è stato quello di andare via a giugno. Poi ha parlato anche di Pizarro dicendo eravamo d'accordo che Amarassi sarebbe entrato, mi ha detto che aveva la schiena bloccata. Non voglio credere che credere per non giocare entrerebbe in ballo la sua professionalità. Questo aveva detto Del Neri. Montella ha risposto: beh, dipende come Ranieri lo aveva chiesto al giocatore. Intanto Pizarro oggi si è fatto male di nuovo. Non sembra sia grave, lo avete sentito dalla voce di Montella, poi vediamo. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi se volete cominciamo anche a chiacchierare insieme. 800 24 00 24, numero verde. Strade in diretta. Sull'Autosole un chilometro di coda per un incidente tra Barberino e Calenzano verso Firenze. Ancora sull'Autosole code da smaltire tra Firenze Scandicci e Incisa verso Roma per un incidente ormai risolto. Ci spostiamo adesso sulla 14 Adriatica, anche qui un incidente, code di circa 2 chilometri tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole in direzione nord. Siamo adesso sulla diramazione per Pisa, qui è chiuso per un incidente lo svincolo di Cascina, sia in entrata che in uscita verso la strada di Grande Comunicazione. E passiamo alle segnalazioni meteo, sull'Autosole nevica tra Sasso Marconi e Calenzano, nevischio tra Milano e Lodi, pioggia mista a neve sulla A4 tra le province di Bergamo e Brescia, poi sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli, deboli nevicate ancora nell'area di Bologna. Infine in Abruzzo nevischio sulla A24 tra Carsoglio Ricola e L'Aquila e sulla A25 tra il Bivio per la A24 e Avezzano. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Dunque torniamo e salutiamo il mio amico Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Anche tu scioccato per questo 0-7 che noi non avevamo mai visto, perché che in tutta onestà io nel 55 non ero nato, nemmeno tu. 0-8 di Genoa-Milan, esatto, quindi un risultato esatto. Così tondo in trasferta ti lascia un po' lì. Ma guarda, siccome abbiamo colleghi palermitani in redazione, eravamo proprio sintonizzati su Palermo-Udinese e dopo 20 minuti era tutto finito, ma non finito di più. Cioè c'era una squadra ferma e un'altra che volava, in particolare il secondo gol di Sanchez è stata una meraviglia. Sì, una meraviglia. Sanchez che tra l'altro non aveva mai segnato una doppietta con la maglia dell'Udinese, oggi ne ha fatte due di doppiette. Esatto, una doppia doppietta. Doppia doppietta. Tutti sono molto curiosi, i nostri ascoltatori, tutti curiosi di sentire cosa dirà Zamparini, anche noi lo siamo per la verità, per paradosso potrebbe addirittura non mandare via degli Orossi dopo una giornata come questa, non lo so. Ci sarebbe da aspettarsi questo, infatti. Vero. Mirko, invece, leggevo prima che un'agenzia secondo la quale c'è uno Juventus Club della provincia di Roma, di Arcinazzo Romano, che sta invece organizzando una petizione per mandare via Del Neri. Ecco. Io credo che in questo momento Del Neri sia abbastanza saldo al suo posto, ma non per particolari questioni, ma per mancanza di alternative. Non c'è un traghettatore credibile, e mandare via Del Neri adesso probabilmente vorrebbe dire sfasciare letteralmente tutto definitivamente, anche poi alla luce dei risultati di oggi, perché la Juve è ancora in vita per quanto riguarda l'Europa League, perché la Roma si ha frenato clamorosamente in casa, perché la Lazio ha perso, c'è solo l'Udinese che va avanti alla grande, insomma diciamo che tutto è rimasto com'era, certo con una giornata in meno, ma questo forse è un aiutino in più per Del Neri e un aiutino in più per la dirigenza della Juve, che può permettersi tra virgolette ancora di tenere le cose come stanno, che poi è la strada migliore secondo me da qui a fine stagione, comunque, perché avrebbe poco senso cambiare da qui a fine stagione. Perché cambiare da qui a fine stagione vuol dire non puoi fare niente, non è che puoi comprare dei giocatori, non puoi fare niente. Secondo me vorrebbe dire perdere dell'altro tempo. Se credi davvero in questo progetto, è il momento di capire che cosa va, che cosa non va, chi è da Juve, chi no. Come scrive secondo me Tutto Sport, via tutti questi giocatori del Neri non sono da Juve, vediamolo, perché con un po' di razionalità e di freddezza questi sono i momenti difficili in cui capisci, no, chi è da Juve e chi no. Allenatore compreso. Sono d'accordo con te, questa è una squadra che è stata ricostruita completamente, non ci sono i grandi campioni, ma proprio per questo tu non devi buttare via tutto, devi gestire quelli che ci sono adesso, devi capire chi di questi ti può tornare utile e poi devi inserire grandi campioni, certo, ma era previsto diciamo in questo progetto che alla fine di questa stagione arrivassero 2 o 3 grandi giocatori, a quel punto puoi costruire qualcosa di concreto, ma se ricominci a cacciare via tutti ogni volta non vai da nessuna parte. A tuo avviso quali sono le colpe di Del Neri in questo momento? Ma guarda, le coppie del Neri sono secondo me maturate tutte nelle ultime settimane, cioè si è dimostrato un po' troppo testone nel non voler mai cambiare strada anche dal punto di vista tattico, lui personalmente, nell'andare avanti con certe idee e poi paradossalmente voler stravolgere tutto nel momento sbagliato. A cosa mi riferisco? All'intervallo della partita di ieri. E voglio dire, la Juventus aveva fatto un primo tempo non eccezionale, non era una grande partita, però sì, non aveva rischiato niente e le uniche due o tre occasioni erano state tutte della Juventus. Ora, è vero che Iaquinta e Martinez stavano giocando molto male, ma cambia loro due senza stravolgere ancora tatticamente la squadra. Invece lui che fa? Si inventa un 4-2-3-1, comunque manda in campo tre giocatori offensivi più e finisce per sbilanciare la squadra, forse per un attimo far perdere anche i punti di riferimento alla propria squadra, che infatti ha subito immediatamente il gol di Di Vaio, cioè passare da un eccesso all'altro. Ecco, forse questo ha anche un attimino spaesato la squadra e l'ha fatto al momento sbagliato. Io, nonostante una stagione non eccezionale, voi pensate, se la Juve avesse fatto i 6 punti che doveva fare con Lecce e Bologna, sarebbe lì a un punto dalla Lazio. Sì, sì, no, ma non c'è dubbio. Senza fare cose straordinarie. Guarda, ecco. Mi sembra una squadra estremamente fragile, ma questo l'ha detto anche Del Neri. Quindi una squadra che non riesce a metabolizzare, e a Lecce, ad esempio, quell'espulsione prematura di Buffon, non riesce a metabolizzare. Ieri il cambiamento, l'errore di Del Neri è questo cambiamento di cui tu correttamente parlavi. Se si infila un granello di sabbia, questa squadra crolla tutto insieme. Esatto. E questo è il vero problema di questo momento. E a maggior ragione, forse mandar via il suo allenatore crea ancora ulteriori disastri. No? Devono avere sangue freddo da qui fino a fine stagione. Assolutamente vero. Senti, proviamo insieme a parlare con un paio di ascoltatori che sono già lì in linea da un po'. Certo. 800 24 00 24. Alvaro da Milano è il primo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, semplicemente questa maglia bianca che non la tollero. Quella della Juventus. Quella della Juventus, sì, non riesco a capire perché non usano la maglia striscia. La mia Juventus senza quella maglia lì è... non sarà che porto un po' sfiga queste maglie qua, la maglia gialla l'anno scorso. Questo gnoso di una cosa. Quindi abbiamo mia, però Alvaro, abbiamo capito qual è il problema vero della Juventus. È cromatico, è il colore delle magliette. Non devo ci sono dirti che problemi. È un sentimento comune, perché ieri quando sono ricomparsi con questa maglia qualcuno anche in tribuna stampa ha detto: ah, questa maglia non è che porta molta fortuna. Mena sgarro e puntualmente se fosse solo quello il problema, esatto, credo sarebbe già stato risolto, insomma. Flaviano, provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Più che altro, mi perdoni, più che altro ve la giro. Il problema non è il colore della maglia, bisognerebbe capire perché chi se la toglie, la maglia bianconera o bianca o gialla, insomma la maglia della Juventus rifiorisce come un tulipano, oggi a Mauri, però poi tutti gli ex della Juventus quando passano di lì, pam, gli impastano 1, 2, 3 gol. Il primo gol di Mauri è incredibile, il primo dei due era un gol pazzesco. Che a Torino l'hanno visto 3 anni fa un gol così. Sì, esatto. Flaviano, buonasera. Buonasera. Dica. Ma niente, io volevo accennare solo delle differenze, allora, tra Juve, Roma, Palermo, eccetera, eccetera. Sì. Allora, le scelte e le competenze partono dalla C2, dalla C1, dalla B e la A, no? Mm. Allora ci sono categorie di dirigenti, categorie di direttori sportivi, direttori generali, allenatori, e quella è la differenza. Allora, se dalla dirigenza non si ha le idee chiare e non si ha la personalità, il carisma e l'esperienza, eccetera, eccetera, per essere in un determinato posto, in una determinata società, sì, e avere, come si può dire, anche, scusi il termine, un certo carisma molto forte, no? Sì. E deve essere la dirigenza prima di tutto capire. Quindi lei dice ci sono categorie di dirigenti, ci sono dirigenti da grande squadra, allenatori da grande squadra e tutti gli altri non possono diventarlo, quindi secondo lei? Non c'è possibilità che... Attenzione, perché abbiamo l'esempio di Sacchi, abbiamo ad esempio di tanti. Allora, però è la dirigenza, e dalla dirigenza, e da chi comanda, e da chi fa le scelte, che è la differenza. Sì. Punto, perché se una dirigenza dà in mano un direttore sportivo, un allenatore, risolve il problema che tra 2 anni dobbiamo vincere, sì, no? è la dirigenza che deve capire. Beh, la dirigenza, non so se si riferisce alla proprietà della dirigenza, mi sembra che Marotta comunque sia un esperto, se stiamo parlando di Juventus e per fare nomi e cognomi, mi sembra che Marotta sia comunque un esperto navigatore del mercato, uno che in molti posti, non ancora in grandi squadre, ha fatto molto bene. Insomma, Del Neri è stata una scommessa voluta da Andrea Agnelli, è stato l'allenatore scelto da Andrea Agnelli. È chiaro che per Del Neri si tratta della prima esperienza a questo livello, alla sua età, se è questo di cui stiamo parlando. Mirko. No, io sono perfettamente d'accordo con te. Marotta non è attaccabile in quanto ad esperienza, cioè parliamo di uno dei dirigenti più esperti e forse più bravi che c'è in circolazione. A Genova con quattro soldi ha costruito un capolavoro, ha portato Cassano a zero, ha portato Pazzini per quattro soldi, quindi non parliamo di un dirigente che forse là davanti, ecco, parlando delle squadre che stanno tutte là davanti, insomma, forse è secondo solo a quelli del Milan per esperienza. Quindi francamente da quel punto di vista lì la società mi sembra anche piuttosto solida. Su Del Neri sono d'accordo con te, certo è la prima esperienza importante, arriva all'età di 60 anni, però è un allenatore che pure lui ha dimostrato di essere un ottimo costruttore di squadre, forse era questa la scelta di Agnelli. In un momento in cui tu rivoluzionavi tutta una rosa c'era bisogno di un costruttore di squadre, di qualcuno che cercasse di riorganizzare una squadra, e in questo senso la scelta poteva essere giusta. Poi sai, a posteriori siamo tutti bravi a dire quello non è all'altezza, quello è scarso, quello è bravo, eccetera eccetera. No, ma dici bene, insomma, ci vuole, in questi momenti in particolare si dimostra l'abilità, no? È nei momenti difficili si dimostra l'abilità, vedremo se avranno sangue freddo di utilizzare questo ulteriore banco di prova per costruire qualcosa, oppure l'alternativa riazzerare tutto e perdere un altro sacco di tempo. Quindi mi sembra che il bivio sia questo. Mirko Graziano, ti chiedo ancora questo prima di ringraziarti. Domani sera come la vedi Milan-Napoli? Innanzitutto abbiamo ancora 24 ore di tempo per vedere i filmati d'epoca, no? Il gol di Van Basten, Gullit, Rijkaard, e questo fa certamente piacere. È chiaro che credo che la differenza tra quelle partite che stiamo vedendo in immagini d'epoca e questa sia la differenza che c'è tra Maradona e Van Basten e Cavani e Ibrahimovic. Bravissimo, no? Qui riassumiamo già tutto. Per quanto riguarda il Napoli, dobbiamo ricordare che questo Napoli sta facendo miracoli, ma che centrocampo e difesa non sono reparti fantastici. Quel Napoli era una grande squadra anche in quei reparti. Detto questo, io sono molto curioso di vedere la partita di lunedì, perché credo che il Milan sia nettamente superiore al Napoli, però penso che il Napoli dal punto di vista atletico sia una specie di prodigio. Io forse te l'avevo detto anche l'ultima volta che ci avevamo sentiti, credo che il Napoli abbia il preparatore atletico più bravo che c'è in circolazione. Sì. Le squadre di Mazzarri corrono dalla prima all'ultima giornata, e vero, quando tu arrivi a primavera e ancora corri, allora diventi pericoloso. Certo, l'assenza di Lavezzi è qualcosa di pesante, perché Lavezzi è l'uomo che ti dà la superiorità numerica e che poi crea gli spazi per Cavani, che negli spazi a sua volta è un giocatore devastante. Sono molto curioso, perché a questo punto il Napoli si è messo al sicuro dal punto di vista della Champions con l'ultima vittoria in casa col Catania, e quindi se la può veramente giocare a cuor leggero, può veramente andarsi a giocare la grande scommessa, sì, il famoso all-in del poker, butta tutto lì e vedi come va a finire. Se vinci sei in zona scudetto piena proprio. Col cuore leggero giocare la partita del grande sogno, fai benissimo a dirlo. Grazie Mirko, un abbraccio. Grazie a te, alla prossima. Un abbraccio, ciao. È vero, comunque il Napoli, fateci caso, ditemi voi quando il Napoli ha avuto una flessione in questa stagione. Ha avuto dei momenti di flessione non atletici, ma derivanti dall'assenza di qualcuna delle sue stelle da cui non può prescindere. Dovrà prescindere domani da Lavezzi e vediamo come va la grande occasione. Luca da Milano, poi ci fermiamo un attimo, anzi prima è di Ryan con Sky. Sentiamo una battuta del allenatore della Lazio oggi sconfitto. Quasi stregate, perché noi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto una buona prestazione, non abbiamo concretizzato. Questo sicuramente, perché quando c'hai la superiorità di gioco soprattutto da metà campo in avanti e ti gira male. Non è la prima volta che rimprovera la squadra proprio questo: poca incisività lì davanti, poca concretezza, anche se poi insomma negli ultimi 20 minuti la Lazio ha giocato con Kozak, Hernanes, Zárate e Floccari tutti in campo, ma non si è vista la reazione che chiedeva. No, sai, a quel punto lì puoi mettere, avevamo anche il vento contro tutto il secondo tempo e diventava difficile cercare di buttare le palle in avanti. Loro si sono chiusi molto bene, si sono difesi molto bene, sono partiti qualche volta in contropiede, però noi non abbiamo avuto la forza di andare a recuperare questo risultato. Ci sono state un paio di opportunità, c'era la conclusione di Sculli, c'era un colpo di testa di Cosa che se la lasciava Sculli, magari era dietro, non l'ha visto e magari poteva anche arrivarci, e niente, avremmo meritato miglior sorte sicuramente, però niente, si guarda avanti, abbiamo abbiamo ancora una buona posizione in classifica, adesso bisogna cercare di sfruttare al massimo i turni che avremo in casa, soprattutto domenica col Palermo. Questo è Direia, mentre alla signora Daniela sorge una domanda che gira via SMS. Chiedono le dimissioni degli allenatori, ma ai giocatori mai le dimissioni? Luca da Milano, buonasera. Sì, salve, buongiorno. Io volevo, se era possibile, dire due cose sulla Juve. Prego. Salve, io non so quello che pensa lei, io ho l'impressione che il problema non sia tanto di giocatori, allenatore o chissà che altro. Io credo che probabilmente qualcosa si è definitivamente spaccato nel momento stesso in cui la Juve è andata in B, nel senso che io credo che proprio la famiglia, la proprietà non c'è più. Io credo che la Juve non sia più una priorità della famiglia Agnelli, sì, o di quello che resta. Però Luca, attenzione, questo non lo so e forse non lo era più nemmeno prima, no? Certamente si è spaccato tutto, nel senso che una squadra è stata azzerata e lì non si trattava di ricostruire una squadra di vertice, si trattava di costruire da zero una squadra. Poi se possiamo discutere se è stato buttato via troppo tempo, stati buttati via troppi soldi e a che punto siamo con la costruzione della casa dopo il tempo che è passato. Però è evidente come la grande penalizzazione della Juventus non sia stata tanto, non voglio adesso scendere in discorsi che portano lontano che non ho voglia di fare, però la grande penalizzazione non è stata la sottrazione di scudetti o la retrocessione stessa, quanto il fatto che è stato bruciato il futuro immediato di questa squadra. Prego. Guardi, quello che dice lei è vero, salta però all'occhio che tutta una serie di scelte che anni fa non sarebbero mai state poste in essere, nel senso che comunque molti giocatori che sono arrivati a Torino con grande sponsorizzazione, oggettivamente, al di là del fatto che indossano la maglia bianconera, sì, ma non sono grandi giocatori. La Juve è sempre stata, per esempio, un grande esempio per avere grandissime difese, ottimi centrocampi, eccetera. Nessuno pretendeva di tornare in tempi record la grande squadra di vertice che era, però questa assenza di progetto la vedi in arrivi di giocatori che onestamente, per l'amor del cielo, in altre piazze magari si metterebbero anche bene in luce. Purtroppo a Torino lo vedi subito, cioè dipende quali sono gli obiettivi. No, ma Luca, ne sono stati sbagliati tanti di acquisti ed è inutile stare qui a fare l'elenco, no? Secondo me quest'anno sono stati presi dei giocatori che possono essere funzionali a un progetto e per ragioni di qualità e per ragioni anagrafiche. Certamente mancano i grandi campioni in questa Juventus. Aggiungiamo il fatto che in questo particolare momento storico inserirsi nella Juventus è difficile e la Juventus magari non ha nemmeno più l'appeal che aveva un tempo nell'attrarre i grandi giocatori in questo particolare momento storico. Insomma, ci sono tanti gli elementi su cui ci si potrebbe soffermare. Ci fermiamo un attimo, 800 24 00 24, poi riprendiamo a parlare insieme di quello che volete. Sistema di navigazione a comando vocale. Dica il nome o la sigla della destinazione scelta. Piazza Napoli. La destinazione scelta è Napoli. No. La destinazione scelta è Novara. No. Voleva dire Nuoro? Ma va! Voleva dire Varese? Varazze? Ecco sì, perché no? Cerchi sfide più intelligenti. La settimana enigmistica. Per staccare la spina senza staccare il cervello. La settimana enigmistica. Accende la mente. Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell. Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda. Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto. Chiediamo scusa a tutti i proprietari di Infiniti FX. Ci dispiace che vi sentiate così osservati quando in coda al semaforo tutti vi guardano per poi sparire dietro la potenza del nuovo motore V6 diesel. Nuova Infiniti FX, il perfetto abbinamento tra un'auto sportiva e un diesel. Fino a fine marzo, Infiniti FX può essere tua a soli €499 al mese. TAEG 5,59%. Prenota un test drive su Infiniti.it. Infiniti. Inspired Performance. Artisti in mostra. La nuova, grande, bellissima fiera dei creatori d'arte contemporanei. A Parma sabato 26 e domenica 27 febbraio e da venerdì 4 a domenica 6 marzo. In concomitanza con Mercanti in Fiera Primavera. Artistiinmostra.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Prevalenza di nuvole domani su gran parte del nord, con alcuni rovesci temporali su Appennino Ligure, Alpi e pianure vicine, specie tra il Piemonte e la Lombardia. Tempo migliore al centro-sud, con qualche annuvolamento su Alta Toscana, Appennino e Sardegna, dove sui monti non si esclude qualche isolato temporale. Temperature massime in calo su Alpi e nord-ovest, in ulteriore lieve aumento al sud e sul medio adriatico, venti in prevalenza deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e per il meteo tutto. I soldi non ci sono, Ernestino. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Dal regista della Ragazza del Lago, Tony Servillo, Remo Girone, Sara Felberbaum, Il Gioiellino, dal 4 marzo al cinema. Passa con naturalezza dai 58 gradi ai 90 sotto zero. Supera i 300 km orari senza oscillazioni. Solleva decine di quintali con un soffio. Ma neanche lei, l'aria, può resistere a classe E coupé. Arrenditi al fascino dell'auto di serie più aerodinamica del mondo. Da oggi sulla gamma classe E coupé il cambio automatico è incluso nel prezzo e il tuo usato vale come se avesse un anno in meno. Offerta valida negli showroom Mercedes-Benz e soggetta a restrizioni. Info mercedes-benz.it. Non hai ancora portato titoli e fondi in Fineco Bank? Forse è ora. Trasferiscili subito e hai fino a 2.000 euro. Chiama l'800 101 101 o contatta i nostri financial advisor, sempre a tua disposizione per aiutarti ad investire. Scadenza promozione 31/3/2011, trasferimento minimo 10.000 euro. Dettagli, iniziative e fogli informativi su fineco.it. Su www.motori24.com ho scelto la mia auto. Fra le vetture usate selezionate da Audi Prima Scelta Plus, entra in Motori 24 e accedi alla sezione Usato per Motori 24. Troverai vetture usate di ogni marca, selezionate dalla rete di concessionari Audi Prima Scelta Plus, sottoposte alla rigorosa verifica 110 punti e accompagnate da servizi di assistenza. www.motori24.com. Affidati alla guida di consulenti fidati, perché gli affari non si fanno solo in borsa. A tempo di sport. Torniamo insieme e facciamo un salto a Cesena, dove c'è Emilio Buttero, che ha visto Cesena vincere questa partita cruciale nella sua corsa verso la salvezza in modo rocambolesco, 89esimo su un rigore, un rigoretto insomma. Emilio, buonasera. Sì, buonasera Carlo, a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque Cesena torna a vincere dopo 9 giornate, una boccata d'ossigeno importante per la formazione bianconera, che può così riprendere l'inseguimento verso la quart'ultima piazza. Per il Chievo invece è la terza sconfitta consecutiva, che sa un po' di beffa. Lo chiedo al mister del Chievo, Stefano Pioli, che ringrazio per essere qui ai nostri microfoni, mister. Sì, in realtà è proprio così. È una partita che abbiamo rischiato di vincere a 5 minuti alla fine con un contropiede clamoroso, un'occasione del gol importantissima, e poi l'abbiamo addirittura persa. Insomma, dai, è un momento che non ci dice bene in queste situazioni, perché tutti gli episodi, queste partite vengono veramente decise dai singoli episodi. In tutti gli episodi noi siamo stati, ci vedono sempre sfavoriti. Basta vedere il fuorigioco clamoroso di Pellissini nel primo tempo e il rigore, che insomma a quel momento della partita il rigore, per essere fischiato, deve essere veramente netto, forse anche più di netto, e probabilmente questo non lo era. Ecco, Pioli, per la sua squadra è un momento negativo sul piano dei risultati, anche se sicuramente l'atteggiamento del Chievo non è quello di una squadra in crisi. Assolutamente, in questi 3 ultimi risultati negativi solamente la prestazione di Cagliari è da dimenticare, per come ci siamo espressi, ma col Milan oggi la squadra ha dimostrato di stare bene, di crederci, di giocare e di lavorare la squadra con continuità. È innegabile che sono 3 risultati negativi che ci hanno fatto abbassare un po' la nostra classifica, ma è altrettanto vero che siamo consapevoli di non ci siamo mai illusi che la salvezza fosse facile da conquistare, però abbiamo tutte le carte in regola per raggiungerla. Carlo, c'è ancora il tempo per una domanda dallo studio. No, io guarda, volevo semplicemente fare i miei più sinceri complimenti a mister Stefano Pioli, perché non è facile prendere in faccia il braccio di Robinho oggi con il Cesena, che non è una grande squadra, quindi non si possono neanche fare tanti discorsi strani e stravaganti. Cioè, oggi prende il gol al 90esimo su un rigoretto, come ho detto prima, esce e dice quanto sta dicendo. Quindi, caro Stefano, io mi limito a farti i complimenti. Grazie, grazie. Speriamo che in futuro di essere più fortunati. Grazie. Eh sì, grazie a te. Grazie a Emilio Buttaro con Stefano Pioli, mister del Chievo, perché la classe non è acqua nemmeno nel dopopartita. Ezio da Palermo, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, niente, come la mettiamo? La mettiamo male, perché comunque è vero che Delio Rossi è un tecnico, insomma, d'esperienza, che ha fatto abbastanza bene in tutte le piazze, però questa volta nei confronti suoi non mi sento di dare Ezio, piena... Però è talmente grossa che viene quasi voglia di pensare che sia un episodio così isolato, no? Sì, perché sì, non può essere. È chiaro che il Palermo non è questo, se guardiamo. È il momento anche qui, come per la Juventus, di essere freddi, no? Di fronte a una sconfitta scioccante di questo tipo. Allora, infatti il pubblico comunque dopo la partita ha applaudito Dario Rossi, perché comunque non si può pensare che la colpa sia solo del tecnico. Qui si tratta di una scellerata anche campagna acquisti di sloveni e di una difesa che comunque fa acqua da tutte le parti. Insomma, Ezio, però scellerata campagna acquisti di sloveni, mi sembra che Ilicic e Bacinovic fin qui siano stati le due vere grandi sorprese, non del Palermo ma del campionato intero. Diciamo che però Bacinovic è un po' immaturo anche per il campionato italiano, in quanto quello che ha fatto oggi, lasciare i compagni sul 3-0 da soli, non è da un giocatore importante. È lo stesso Andelkovic, comunque, che è uno sloveno, non è da Serie A. Ha fatto un grosso errore sul primo gol, quello che ha aperto la festa dell'Udinese. Questo è vero, non dimentichiamo però il dato anagrafico, Ezio. Anche qui, secondo me, sono giocatori di grandi prospettive. Insomma, il Palermo è una squadra molto giovane, molto, molto divertente, molto bella anche da vedere giocare, ovviamente, salvo oggi. Non dimentichiamo che come tutti i progetti che sono imperniati sui giovani si va in altalena, con i bambini si va in altalena, una volta vai su, una volta vai giù, magari non così giù come oggi, però insomma è il classico indizio che può suonare come prova, no? Sono gravi peccati di gioventù anche questi, secondo me oggi più che esonerare Delio Rossi si dovrebbe auto esonerare il presidente Zamparini. Cioè, secondo me oggi lui dovrebbe dire: io per adesso non sono in grado e non ho la lucidità mentale di fare il presidente del Palermo. Do la presidenza a un altro personaggio, possibilmente anche di Palermo, un personaggio di un certo carisma, perché lui è troppo impulsivo e fa a volte solo del male a questa società. Ha qualche idea? Chi potrebbe essere? Qualche idea su chi potrebbe essere? Sinceramente non ho idee su chi potrebbe prendere la carica di presidente del Palermo, ma io non credo che, insomma, Zamparini ha qualche volta provato ad autoesonerarsi per questioni di beghe arbitrarie, lo sa bene, vendo tutto, vado in Australia, in Africa, in Asia, da un'altra parte, perché qui questi discorsi li ha già fatti mille volte con credibilità abbastanza bassa. Io non credo che si autoesonererà. Però può essere anche che di fronte a qualcosa di impossibile da spiegare razionalmente, come quello che è successo oggi a Palermo, non si astenga anche da esonerare Delio Rossi. Poi proviamo a collegarci con Palermo e vediamo. Grazie Ezio, 800240024, Guglielmo Timpano da Roma. Ciao Guglielmo. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli amici. L'aeroplanino si alza, poi si abbassa, si impantana 2-2. L'aeroplanino, sembravano più montagne russe piuttosto che aeroplanino, quello che abbiamo visto oggi allo Stadio Olimpico, e non è nuova la Roma, questi sbalzi anche all'interno della stessa partita. 2-2 contro il Parma, va a fare il paio con il 2-2 della gara d'andata con il Bologna, quando poi la Roma di Ranieri fu rimontata nei minuti finali da Marco Di Laio. Questa volta la doppietta l'ha segnata un Amaury, che erano davvero tanto tempo che non segnava due gol in Serie A. Il primo una perla assoluta di rara bellezza che poi ha fatto venire il braccino del tennista, una Roma che, spaventata dai suoi stessi fantasmi, è caduta nell'errore di non provare a segnare il terzo gol, e anche quando ha raggiunto la superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Paci, ormai sul 2-2 non è riuscita a creare palle da gol per vincere questa partita. C'è stata grande amarezza in una situazione già di contestazione, Carlo, perché lo Stadio Olimpico, nonostante la vittoria con il Bologna dell'infrasettimanale, recupero della seconda di ritorno, l'Olimpico ha accolto con grande freddezza, con i fischi, una squadra che viene accusata di correre soltanto quando vogliono i giocatori e di non aver dato il 100% sotto la gestione Ranieri. Oggi quei fischi di inizio partita, quei fischi della presentazione si sono moltiplicati a fine gara e chiaramente c'è stato un grandissimo malumore da parte dei tifosi. Grazie Guglielmo Timpano, era importante sapere qual era l'atteggiamento, qual era stato l'atteggiamento dell'Olimpico, è stato quello che Guglielmo Timpano ci ha raccontato. Ma d'altra parte la Roma, come la Juventus, fa parte di quella categoria di squadre convalescenti per cui l'autostima, l'autofiducia è talmente sottile che basta un dettaglio che gira storto per far crollare il castello. Oggi quel dettaglio è stato quel gol magnifico di Amauri del 2-1 e da lì la Roma si è un po' sciolta nelle sue paure che non sono andate via insieme a Ranieri. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Mirko da Milano, 800 24 00 24, poi abbiamo un sacco di ospiti per parlare di tutti i temi di questa giornata, di questa serata con Sampdoria Inter, della giornata di domani soprattutto, aspettando mentre guardiamo i gol di Maradona, Careca, Van Basten, eccetera eccetera eccetera, Milan-Napoli di domani. Traffico. Pubblicità. È il momento di cambiare. Porta i tuoi risparmi in Chebanca. Conto deposito ti dà un doppio vantaggio: 2,50% sulle somme depositate per un anno e in più gli interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 marzo 2011. Fogli informativi in filiale all'848-444488 o su chebanca.it. Chebanca, la banca per tutti, del gruppo Mediobanca. Strade in diretta. Sull'autosole code per un incidente ora risolto tra Barberino e Calenzano verso Firenze. C'è un altro incidente, si formano code tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Passiamo alle segnalazioni meteo, deboli nevicate ancora sull'autosole tra Sasso Marconi e Calenzano, pioggia mista a neve anche sulla 15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli e poi sulla A4 tra le province di Bergamo e Brescia. In Abruzzo invece nevischio sulla 24 tra Carsoli Oricola e L'Aquila e sulla 25 tra il Bivio per la 24 e Avezzano. Infine prudenza sulla 12 Roma Civitavecchia, pioggia e grandine tra Santa Severa e Civitavecchia. È tutto, il prossimo appuntamento è tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading sui CFD con IG Markets. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso a oltre 20 borse internazionali 24 ore su 24, offre notizie in tempo reale, un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sui CFD. IG Markets è il primo in Italia per il trading con i CFD. Demo gratuita su www.igmarkets.it. A tempo di sport. Ecco che parla Zamparini, mi sa che abbiamo sbagliato tutto. Dice Zamparini, no, questo è Juan, sta parlando in televisione. Zamparini, la leggo io l'agenzia con le sue dichiarazioni. Rossi ha l'1% di possibilità di restare in rosa nero. Provate a scommettere. Una squadra distrutta ha rovinato il mio Palermo, dice Zamparini, che aggiunge. Ha distrutto questa squadra, avevo detto all'allenatore di sistemare la difesa e non l'ha fatto. Rossi mi ha tolto Muñoz, che è il migliore della difesa, non si può giocare così. Dunque la situazione è questa, mentre Rossi poco prima aveva ribadito ai microfoni Rai quanto ho detto prima a Sky, e cioè sono un combattente, sono arrivato, questa squadra l'ho portata dove l'ho portata. Non mi dimetto, sono arrivato in questo gruppo e l'ho portato a questo livello. Non mi dimetto, sono un combattente. Ma Zamparini ha l'1% di possibilità di restare qui. Questa è la situazione da Palermo. Tommaso da Bologna, buonasera. Dica. Ho ascoltato con piacere quello che avete appena detto di Palermo e si riaggancia un po' a quello di cui volevo parlare, che è della mia squadra, il Bologna, relativamente alla partita di ieri della Juventus. E sì. E alle fantomatiche crisi che attanagliano ex grandi, o anche il Palermo è un ex grande di fatto, nel senso che ha una storia come squadra, come la mia squadra, però quello che da uomo di sport, non calcio, non è il calcio quello che pratico, ma lo seguo da appassionato di sport, e mi rendo conto che questo mondo che sta sempre più accelerando il tempo del processo che si fa a un progetto, e il breve e medio termine in nessuna attività, tantomeno quella sportiva, può portare dei risultati a questo livello. Certo. Io credo che il Bologna abbia giocato una grande partita contro la Juventus, e la Juventus abbia avuto tantissime sfortune su due o tre episodi, poteva assolutamente Ma poi vincere la partita. Sì. Però vede, Tommaso, il Bologna ha giocato sulle paure della Juventus, no? Ma come fanno tutti, no? Giochi, vai contro la Juventus e giochi sulle sue paure, sai benissimo che ti basta un dettaglio, come può essere un dettaglio il gol di Di Vaio, e la Juventus lì è crollata. Quindi giocano sulle paure della Juventus. La Juventus in questo momento, come la Roma, è una squadra che ha una paura dannata. Credo che abbia appunto la più grande partita che debba vincere contro il suo passato glorioso. Sì. E allo stesso modo però io credo che si debba dare anche a questo ambiente di professionisti un certo tipo di serenità. La devono cercare loro stessi, a tutti i livelli, in tutte le squadre, perché gli spettatori non hanno più la pazienza, si è un po' tornati all'antica Roma, no? Col pollice verso o la giornata nera e si caccia tutto e tutti, ma non si arriva più da nessuna parte. E la prestazione, tanto di cappello al preparatore del Napoli, è una prestazione fisica, e laddove lo sport è sano il corpo risponde lungo tutta la stagione, quindi questo è un lavoro importante. Il tecnico spesso può scegliere anche questo aspetto, sicuro, e tanto è brillante il Napoli, è sempre stato brillante il Napoli dal punto di vista atletico, quanto poco è brillante la Juventus. Molto opportuno il suo intervento, e sta tutto nella premessa, no? Io faccio altro, il calcio lo guardo da spettatore. Insomma, tanto è brillante il Napoli in questa stagione, tanto è stato vistoso il calo della Juventus dopo la pausa natalizia, calo fisico, ripeto. Poi mettiamoci insieme tutto il resto, e la paura e l'angoscia ogni volta che va in campo, e la pressione, la mancanza di pazienza, eccetera eccetera eccetera, però il calo avuto dalla Juventus dal punto di vista della brillantezza fisica nei suoi giocatori chiave è evidente, è stato una delle cause principali di questo disastroso 2011 bianconero. Mirko da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei. Allora, io sono tifoso della Juventus e per prima cosa voglio dire che i giocatori si devono vergognare, ma proprio vergognare. Stanno umiliando milioni di tifosi, perché è vero, la Juve è il campionissimo, ma non credo che la Juve tecnicamente sia inferiore a Lecce, Parma, Bologna, e non mi ricordo più tutte quelle con cui abbiamo perso con un sacco di squadre. Quindi la mia idea qual è? Uno, tranne Quagliarella a me piace tantissimo come giocatore, e anche come persona, tranne lui devono vergognarsi. Insomma, nonostante questo io non cambierei allenatore, perché sono dell'idea che ad un allenatore vanno dati 2 anni, uno per costruire, 2 per portare a casa. Ranieri dato via, cosa è successo? Ferrara, cosa è successo? Cioè, continuo a cambiare. Chi cambia in Zegre non cambia nulla, se la squadra non c'è, se i giocatori non ci sono. Ma poi più che altro si diceva prima che cambiare in questo momento del Neri vorrebbe dire per l'ennesima volta distruggere tutto, poco o tanto sia stato costruito, però distruggere comunque tutto e ripartire di nuovo da zero. Qui starebbe l'errore principale. Ripeto, secondo me questo è il momento, questa è la situazione in cui che può essere funzionale alla costruzione, no? Il momento di gravissima difficoltà in cui fai le scelte. Benissimo, adesso vediamo chi tenere, chi mandar via, cosa fare nel futuro, no? Quindi questo è il momento di difficoltà da cui puoi e devi cavare qualcosa di positivo. Poi quanto al vergognarsi, non so cosa. Certamente i giocatori non fanno apposta a fare di queste figure, a giocare in questo modo. Certamente c'è chi tollera la pressione meno di altri, e anche queste sono valutazioni che vanno fatte. Certamente la Juventus è una squadra che gioca sotto costante stress, perché sa benissimo quale sia l'ambiente che, anche mediatico, che la circonda, dei tifosi, dei media, eccetera, quali siano le pressioni cui è sottoposta. Nello dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera, sono Nello da Caronno, vicino Varese, maradoniano da sempre. Sì. E volevo un po' parlare di questa ingiustizia che comunque ha subito il Napoli. perché pure sulla stessa misura il fatto di aver ricevuto uno sputo e aver risposto non mi pare la cosa più giusta, perché tre giornate a chi ha provocato, tre giornate, no, cioè, questo mi ha fatto non ricordare mi ha fatto ricordare la politica dei tempi di Moggi, no? Quando la Juventus poco prima delle partite. No, a me più che altro, Caronello, fa ricordare la politica tout court, questo, tutto questo discorso. Io non senta, mi perdoni, voglio sentire Miccoli un attimo. Infatti, con Sky. Penso la partita perfetta, non siamo stati all'altezza. C'è poco da dire. C'è poco da dire sulla partita di oggi. Però da capitano vorrei comunque cercare di vedere, no? le cose positive, che secondo me è una su tutte. Mancano ancora 10 partite, siamo là e abbiamo la semifinale di Coppa Italia che ci potrà portare ad andare a giocare la finale. Possiamo entrare in Europa comunque da quella partita, quindi buttarci adesso e a terra o morire in questo momento non ne vale la pena. Hai l'occhio lucido, Fabrizio, sei molto emozionato. L'occhio lucido e non è del tutto lucido nemmeno lui, perché di partite ne mancano in realtà 11, però sappiamo, ci rendiamo conto come l'ambiente palermitano sia in questo momento in maniera evidente sotto shock. Quanto ai discorsi che stavamo facendo con Nello, che io ringrazio, che è un compagno di tifo ma radunato da sempre con me, però non condivido quanto ha detto, perché non sono d'accordo nel bilanciare uno sputo e un altro sputo, però quello mi ha sputato prima, allora questo ha sputato in reazione. Sono due sputi e secondo me da questo punto di vista le sanzioni pari sono, quindi non condivido questo discorso. Poi possiamo parlare di procedure, di altre cose, ma l'abbiamo già fatto. A tempo di sport. Torniamo insieme, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire. Certamente, caro Cristiano da Cagliari, che invia un sms insieme a molti altri, 349 238 6666, vi ricordo il contatto. Certamente Cristiano da Cagliari merita un applauso d'onore, 9 vittorie in 15 partite, l'Europa League fa schifo a tutti ma non a me, scrive correttamente Cristiano. Europa League che comporta però grandi sacrifici in termini economici, in termini di risorse, di energie, eccetera eccetera, e si finisce per pagarla, ed è per questo che curiosamente in Italia, insomma, la vogliono tutti a fine campionato per dare lustro alla stagione, ma poi non la fa di fatto nessuno in maniera corretta. Io voglio fare un salto a Palermo prima di Maurizio della provincia di Latina, che è un ascoltatore già in linea. Voglio fare un salto a Palermo da Giovanni Di Marco per avere le ultimissime sulla situazione. Dunque, Delio Rossi ha detto: tutta colpa mia, mi prendo i fischi, gli insulti, gli sputi, i giocatori non c'entrano, la colpa è esclusivamente mia, ma non mi dimetto. Zamparini dice invece all'1% Delio Rossi resterà a Palermo, quindi al 99% è già fuori. Miccoli invece ha appena detto la squadra è con lui, non vogliamo cambiare. Giovanni Di Marco. Sì, devo dire che anche i palermitani sono con Rossi, perché a fine partita e già nel secondo tempo sul 5-0, sul 6-0 si è alzato un coro, partito dalla gradinata, poi coinvolto un po' tutto lo stadio, Delio Rossi olè, olè, Delio Rossi olè. È una situazione paradossale, anche perché è stato un pomeriggio da incubo per i palermitani, però ti posso anche riferire una frase che ha detto il presidente ad un collega che l'ho appena chiamato, e gli avrebbe detto: non tutti i mali vengono per nuocere. Zamparini è da tempo, insomma, che punta il dito nei confronti di Rossi, perché non è soddisfatto della fase difensiva di questo Palermo. Oggi ne ha presi addirittura 7, è stata una giornata nerissima, al di là, insomma, di quelli che possono essere i limiti della difesa di questo Palermo. Zamparini ha detto che rifletterà nelle prossime ore, però insomma l'1% a cui facevi riferimento tu mi sembra abbastanza emblematico. Ha anche detto ad un altro collega, perché ovviamente in questo momento lo stanno chiamando tutti, che avrebbe intenzione di affidare la squadra all'allenatore della primavera, che è Paolo Beruarto, però insomma ci sono altri allenatori in giro che in questo momento sono liberi, se ne saprà di più nelle prossime ore. Sinceramente mi aspetto un comunicato ufficiale, non ti dico entro la serata, ma al massimo domattina sì. Perfetto, quindi Delio Rossi è fuori, no? Diciamo, guarda, non 99% è la percentuale credibile data dallo stesso Zamparini, insomma, teniamo per buono quello. Mettiamoci un 9, un altro 0,99 noi, diventa 99,99. Okay, più chiaro di così si muore. Grazie Giovanni. Ciao. Buon lavoro, grazie Giovanni Di Marco. Sarebbe un peccato e un errore, secondo me, ma tanto decide Zamparini. Maurizio, provincia di Latina. Dottor Genda, buonasera. Buonasera. Volevo fare due considerazioni. La prima sull'Udinese, io sono un tifoso del Milan. L'Udinese mi somiglia molto in piccolo, con le dovute proporzioni, al Barcellona, una squadra sì. che secondo me fa della freschezza atletica e dell'agilità l'arma vincente. Un po' ribalta quell'idea che ormai nel calcio sta entrando sempre più in voga e di moda, quello di avere giocatori alti, palle alte, sì. decorazioni, la forza fisica a dominare sulla tecnica. Invece l'Udinese sta dimostrando che la tecnica ha sempre la meglio, almeno questo è il mio pensiero. Sì, poi è una squadra che sta benissimo fisicamente, Maurizio, è una squadra che sta che arriva prima su ogni pallone. Agile, sì, questo certamente, questo certamente. Poi l'ultima considerazione, se me la permette, da quando è successo il fattaggio di Lavizzi, poi ci rendono le televisioni del Napoli, c'è un melodramma inscenato ogni sera sulla questione Lavizzi, l'assenza di Lavizzi, cioè neanche se fosse in cui su Maradona, guarda, non darei chissà che cosa perché possa giocare domani Lavizzi, che è davvero un alibi che sta. Lei lo dice da tifoso milanista, indubbiamente però ammetterà che il peso specifico di Lavizzi nel Napoli è elevato, quindi non è Maradona naturalmente, non è Pelé, non è Cruyff, Van Basten o quelli che vuole, e che può mettere in fila tranquillamente a seconda dei gusti, però il peso specifico di Lavezzi nel Napoli è elevato. Detto questo, quanto al melodramma mi associo abbastanza, insomma, anche perché avete sentito prima, siamo qui ancora a pesare l'entità degli schizzi di saliva, e questo mi sembra, oltre che abbastanza disgustoso, mi sembra ormai fuori luogo, insomma, dire ma l'ha ricevuto e poi l'ha dato, mi sembrano cose abbastanza disgustose, proprio nel senso letterale del termine. Possiamo discutere di procedure, possiamo discutere di altre cose, ma non di questo, secondo me. Nando da Chieti, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Io Dica. Seguo con piacere sempre il suo programma. Grazie. Io volevo riprendere un po' il commento di Moratti dopo la sconfitta in Coppa. Sì. Sull'ultima parola, ci è mancato un centravanti. Secondo lei non c'è stato un errore in estate della società a non pensare a una prima punta dopo la partenza di Balotelli? Sì, c'è stato un errore della società a non pensare a una punta dopo la partenza di Balotelli, errore cui la società ha rimediato ingaggiando Pazzini, ed è questo a cui faceva riferimento Moratti. Però è chiaro che né Moratti, né Benitez, né nessuno, neanche lei, io credo, potevi immaginare che Milito non avrebbe praticamente giocato mai in questa stagione, no? Quindi Moratti ha detto c'è mancata prima punta perché Milito è sempre rotto, come dicono a Milano, è sempre a rut. E Pazzini, per questioni regolamentari, non poteva giocare quella partita. Dunque si può discutere sull'ulteriore pensiero dell'opportunità di ingaggiare comunque un giocatore indisponibile in Europa, che è Pazzini. Questo è l'unico punto, mi pare. Sì, no? Certamente, però in estate c'erano il mercato di sì, in estate dovevano prendere prendevano la possibilità di prendere anche Benzema, voglio dire. Questo è un discorso diverso, Nando. Se stiamo dicendo andato via Balotelli era il caso di pensare subito di prendere un altro attaccante, dico sì. L'altro attaccante poi è stato preso al mercato di gennaio ed è Pazzini, e mi sembra una gran bella idea, mi sembra un gran bel colpo. Pazzini non può giocare in Europa, in Champions League. Detto questo, nessuno, ripeto, avrebbe potuto immaginare una stagione così disgraziata per Milito. Possiamo anche dire, e io l'ho detto molte volte, che con un gesto di estremo coraggio, il giorno dopo la finale vinta a Madrid, Moratti avrebbe potuto anche riazzerare l'intero, non riazzerare, ma ricominciare da capo con un progetto nuovo, cedendo al miglior offerente tutti quelli che erano cedibili, che avevano mercato, cioè tanti giocatori, primo fra i quali Milito, che aveva espresso la sua intenzione di valutare altre strade. Detto questo, è chiaro che poteva essere un altro film, ma stiamo parlando di aria fritta, perché così non è andata, insomma. Traffico. Strade in diretta. Sul lato Sole ci sono code per un incidente tra Firenze Certosa e Incisa in direzione di Roma. code per un incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare. Passiamo alle segnalazioni meteo, deboli nevicate in corso sull'Autosole tra Rioveggio e Calenzano e sulla 15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli, nevischio sulla 4 tra le province di Bergamo e Brescia, in Abruzzo sulla 24 tra Valle del Salto e L'Aquila. Infine prudenza per i temporali in atto con grandine sulla 12 Roma Civitavecchia all'altezza della barriera di Aurelia. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Io trovo sia legittima la domanda che arriva via SMS da Marco, che domanda questo: domenica scorsa era sudditanza psicologica pro Milan, oggi solo errore o sudditanza pro Cesena? Quanto è successo contro il Chievo, qui in questo momento evidentemente gira storta, no? Altri SMS molto incentrati sugli allenatori, quelli di oggi. C'è chi scrive: via Mihajlovic da Firenze, squadra al tecnico delle giovanili. Oppure chi rilancia altre indiscrezioni sul futuro della panchina palermitana, che a quanto pare da domani non avrà più, o da stasera o da stanotte, non lo so, dipende da chi impegna Zamparini, non avrà più come inquilino Delio Rossi, perché come avete sentito 99,9% Delio Rossi ciao, esonerato. Il Napoli ha dei grandi tifosi e ha delle bellissime tifose. La più bella secondo me è Caterina Balivo, che io saluto e ringrazio. Ciao Caterina. Pronto. Ciao a tutti, grazie. Momento mi trovo sotto ad una galleria, ve lo dico. Mi sentite bene? Sì, al momento sì, speriamo. Oh, che meraviglia, meno male. Che... Sì, sto tornando a Milano, poi domani c'è questo grande match Milan-Napoli, quindi la galleria temo che faccia i suoi effetti. Senti, ma sei allo stadio domani? Stadio con un gruppo di miei amici che vivono a Milano, sono napoletani. Riproviamo, ve lo prometto che riproviamo. Terminata questa dannata galleria, riproveremo a parlare con Caterina Balivo, perché sono molto curioso di sentire, di sapere con quale spirito si avvicinerà domani sera al teatro del sogno del suo Napoli. Oggi leggevo delle statistiche, dei ricordi. Questa è stata la settimana dei ricordi, come sapete bene, dei remake, e io sono molto grato a quest'idea del posticipo del lunedì, che piace a pochi. In questa particolare occasione sono molto grato all'idea del posticipo del lunedì, perché ci permette per un giorno ancora di rivedere certi filmati e certe partite, di ricordare certe partite, di rivedere certi gol da Van Basten, Maradona, Carré, che insomma posso fare i nomi di un sacco di protagonisti di quelle sfide. E facevo prima una mia considerazione: la distanza che c'è oggi tra questa partita e quelle, la distanza che c'è oggi tra quel Milan e questo Milan, tra quel Napoli e questo Napoli, è la stessa distanza che c'è tra la coppia Ibrahimovic-Cavani e la coppia Van Basten-Maradona. In un caso due geni del calcio assoluti, nell'altro caso un fuoriclasse come Ibrahimovic, che tra l'altro da quando era un bambinetto viene accostato a Van Basten, e l'altro che è Cavani, che non, francamente non potrà mai essere Maradona. Anche se glielo auguriamo a lui e ai tifosi del Napoli. A proposito di Cavani, so che ha parlato, ha dipinto ulteriori colori su questa sfida. Sentiamo che cosa ha detto. Secondo me si gioca per un sogno, no? Perché io credo che si vince il Napoli o si vince il Milan, loro continuano ancora a sognare con il loro scudetto. Invece pure si vince il Napoli è pure un sogno, perché ti avvicini di più al primo posto, si avvicina alla fine del campionato, quindi già non è solamente, diciamo, un fatto di sorte, come si dice, o di fortuna. Questo è Cavani, che domani ovviamente sarà in campo, non ci sarà, come ben sapete, Lavezzi, e torno a ripetere, nonostante quanto detto dall'ascoltatore di prima, è un'assenza di enorme rilievo per il Napoli. Napoli che, secondo me, non so se su questo siete d'accordo, fin qui ha sbagliato grosso modo una partita soltanto come approccio e come convinzione, ed è stata quella a Milano con l'Inter, perché lì il Napoli, che forse non aveva ancora capito di essere, non ha giocato da grande squadra come avrebbe dovuto. La sconfitta con il Chievo secondo me fa parte degli incidenti di percorso. Quanto al resto, la stagione del Napoli è lì da leggere nei numeri. A proposito di numeri, non so se prima vi ho dato la classifica, è un errore grave da parte mia, lo rimedio subito. La classifica dopo la giornata di oggi, aspettando l'Inter questa sera e ovviamente le altre due domani. Il Milan a 55, Napoli a 52 e domani, come sapete, faccia a faccia. Inter 50, vediamo stasera. La Lazio 48, come si notava prima, tutto sommato ha del nero alla Juventus, allo stesso Montella alla Roma, ha detto bene, perché non si è mossa di molto la classifica nelle zone Champions League, ovviamente fatto salvo il grande passo fatto dall'Udinese. Lazio 48 che ho già perso, Udinese 47, Roma 43, Juventus 41, Palermo 40. Quindi c'è il magnifico Cagliari che ne ha 38, il Genoa che oggi ha perso tra mille polemiche, mille errori o pseudo errori arbitrali a Catania, Genoa che ha 35 punti insieme al Bologna, Fiorentina 34, Chievo e Sampdoria 31, Catania 29, Parma, Lecce 28 e quindi in zona rossa restano il Cesena 25, Brescia 24, Bari 16. No, stavo riflettendo sul fatto che, come dicevo prima, leggevo un articolo dell'ultima volta che il Napoli ha vinto a San Siro, correva l'anno 1986, 2-1 Maradona Giordano. Posso dire c'ero? Vale? C'ero. Io c'ero. Perché Maradona andava a vederlo sempre. 8-0, a prescindere dai colori, tipo, io facevo tifo per lui perché è un giocatore, e per Van Basten perché due giocatori che hanno segnato per me quegli anni. Tutti i discorsi personali, probabilmente non ve ne frega niente. 800-24-00-24, Marco, provincia di Cremona, buonasera. Buonasera. Niente, non so quali giocatori hanno segnato la sua storia, non lo so. La mia storia personale? Beh, penso, visto che sono dal 76 e non abbiamo vinto praticamente niente a parte contrapattoni, penso Milito. Milito, quindi quelli di oggi, insomma. Quelli di oggi. Per ragioni anagrafiche, quelli di oggi. Io sono un po' più vecchio, quindi vado indietro. Dica. Niente, era in riferimento a quello che aveva detto, che Moratti avrebbe potuto rifondare, fare un nuovo progetto. Sì. Dopo la vittoria di Madrid, sì. Giusto per restare. Confermo. In aria fritta. Sì. E però Moratti è un romantico, è uno che ha trattato come un figlio, so. Ronaldo anche lo dopo so. Quello che gli ha fatto, lo so. Che non l'avrebbe mai lo fatto. So. E infatti non l'ha fatto, Marco. Infatti non l'ha fatto. Possiamo dirlo noi guardandola, almeno io guardandola, lei magari un po' meno imparziale, però. Guardandola dall'esterno poteva essere l'occasione giusta per comunque ricostituire una squadra che anche per ragioni anagrafiche è piuttosto in là con gli anni. È comprensibile il fatto che Moratti da romantico non l'abbia fatto, quindi si sia tenuto Milito e si sia trovato in questa situazione, in questa stagione che grosso modo sembra di transizione, poi magari non lo è. Forse è tornata, è finita la galleria. Caterina, ci sei? No, è una galleria lunghissima, mi spiace un sacco, ma vedrete che ce la facciamo perché le gallerie finiscono. Giovanni da Rimini, buonasera. Buonasera. Tanto complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti anche a lei. Quanti anni ha? Posso chiedergli? 28. 28. Quali, sì. quali giocatori hanno segnato la sua storia? Dicevo prima la mia Maradona Van Basten, quegli anni, possiamo metterci anche Platini, ma quelli che mi facevano venire i brividi erano quei due. L'ho sempre visto dalla porta. L'ha sempre visto dalla porta? Sì, per cui... A me mi faceva impazzire Zenga, per me rimane uno dei più importanti portieri di sempre. Poi è molto bravo anche Buffon forse ha una qualità rispetto a tutti gli altri, che è la testa. Sì. Che ha sì. 17 anni, vero, no, in Serie vero. A così, è la testa rispetto al 90% dei portieri. Zenga nell'86 faceva il terzo, 26 anni. Buffon a 17 anni l'ha mandato dentro, sì, e secondo diciamo me non che ha più Buffon non ha, no, ma poi Buffon non ha mai avuto grandi, ha avuto qualche periodo nero come capita a tutti i portieri, però mai grandi cali di condizione, mai grandi appannamenti se non quelli dovuti a problemi fisici. Sì. Volevamo dire altro? C'era dell'altro? Sì, volevo fare un intervento sulla Juventus. Sì, prego. Io non sono tifoso, anche cioè, mi limito a guardare, guardi i gol, guardi i portieri, ma non sono tifoso di nessuno. Seguivo un po' il Rimini, poi il Rimini l'hanno distrutto, per cui... Un po' sì. E niente, volevo dire, secondo me, due cose. Si parla della crisi della Juventus iniziata col Parma. Io la partita col Parma la leggo così. Calcetto di Melo dopo un quarto d'ora rosso. Rigore per il Parma all'inizio del secondo tempo, te lo danno. E palla mirante sulla linea, la tengo, ce l'ha, non ce l'ha, Chiellini fa gol, annullato. Una volta il rosso a Melo è giallo. Il rigore a Crespo non glielo danno e il gol della Juve. Però ma allora lei, cioè lei mi sta dicendo che questo inizio del 2011 è una motivazione. Una Juve in crisi fa 2-2 col Parma 10 anni fa. Adesso perde 1-4. Lasciando stare Giovanni, però lasciando stare 10 anni fa, la Juventus ha, cioè a Lecce mi pare che non ci sia niente da dire. Ieri sera non c'è niente da dire. Secondo me, guardando il film di tutte queste partite senza i singoli fotogrammi, sì, è verissimo. Però dicono che la crisi sia nata da lì, perdi 1-4 in casa. No, quella era una squadra che non c'era, non aveva le gambe, non c'era, come poi le partite successive hanno dimostrato. Cioè non è che quel giorno la Juventus è crollata per chissà quale motivo, era già una Juventus che non c'era più. Poi se gli episodi la tenevano in vita, le davano un punto qua e un punto là, va bene. Però non cambiava di molto il senso di questa parte di stagione che è disastrosa ed è delicatissima, no? Quindi è per quello che dico, togliamo questa sabbia dagli occhi, che secondo me questa qui alla fine è sabbia negli occhi, no? Perché lasciamo stare 10 anni fa l'episodio, il calcetto, le cose, il giallo, il rosso, l'arancione. La Juventus non ha, secondo me, meritato più punti di quelli che ha fatto nel 2011. Sono i punti che ha meritato, poi andiamo a discutere di quei 3 punti con il Bari che ha ciuffato, ma quelli sì sono episodi che fanno parte del gioco, no? Una partita da 1-1, la vinci 2-1 con un colpo del Piero, va bene. La Juventus non ha meritato più punti di quelli che ha fatto. A prescindere dai singoli episodi, poi possiamo tirare fuori il gol di Toni a Napoli annullati, una partita in cui la Juventus è stata asfaltata, perché il senso del discorso è che la Juventus in questo momento non c'è. È terra di nessuno, si tratta di capire se c'è la lucidità di sfruttare questo momento come fase della crescita, o si tratta di ammazzare di nuovo il bambino e andarne a prendere un altro. Via tutti i giocatori, c'è il traghettatore, poi in estate vanno via tutti, arriva un altro allenatore, arrivano altri giocatori, si buttano via molti altri soldi. Quindi mi sembra un momento cruciale, importantissimo, anche interessante nel capire quale sarà il futuro della Juventus. Platini no, scrive Valerio. Platini sì, ma anche Falcao, caro Valerio, però qui stiamo parlando di pelle, e allora per me erano Maradona e Van Basten. Walter da Udine, buonasera. Buonasera Radio 24, complimenti per la trasmissione. No, complimenti a lei, caro Walter. Io sono al cortile qui perché ho lasciato mia moglie con la televisione in sala pranzo per non disturbarla. E io mi sento molto bene, anche se un po' freddino, non importa. Io volevo parlare dell'Udinese, no? Più che altro di Sanchez. Sì, che Sanchez è un grande, è un trascinatore di squadra. Quando manca lui si accorgono tutti. Non è solo lui che gioca bene. Fa giocare bene anche gli altri. Certo. Si poteva avere 4 punti col Bologna, si poteva vincere. Ma vede Walter, vede, i grandi giocatori sono quelli che migliorano il rendimento dei compagni. Senta, ma quel doppio passo davanti al portiere di oggi, Walter è lì? Come? Io sento sempre le partite per la radio. Ah, sente sempre partite per radio. Mi sembra di essere come una volta, come Niccolò Carosio. Mi sembra di essere lì a guardarla. Sì, però se ne posso... Sono molto meglio perché altrimenti o che sarei in prigione o sarei in cimitero. Però io, guardi, mi creda, i gol di oggi, magari non tutti perché sono tanti, però quello di Sanchez del 3-0 lo guardi perché merita, insomma, lancio di Di Natale, azione di contropiede e Sanchez che arriva davanti al portiere e fa come Ronaldo una volta in finale di Coppa UEFA, vado a memoria, contro la Lazio, doppio passo, tac tac, portiere va da una parte, lui va dall'altra con il pallone, una roba straordinaria. A proposito, anche Ronaldo, uno di quelli che faceva venire la pelle d'oca, il primo Ronaldo, sì, cara Valeria Bernardi, che mima il gesto di una... di una nota pubblicità con sui cartelloni con Ronaldo in maglia nerazzurra, quel Ronaldo lì, il primo che si vide all'Inter prima di tutta la sua Via Crucis, beh, quello era un giocatore che secondo me poteva giocare sullo stesso prato dei miei preferiti, che sono quelli che ho citato. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Dal 1 di marzo torna Stagione della Prevenzione, sesta edizione dell'iniziativa rivolta ai proprietari di cani e gatti di tutta Italia, promossa da Ils Pet Nutrition, dall'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e con il patrocinio della Federazione Nazionale Ordini Veterinari. Per tutto il mese di marzo, visite di controllo gratuite per i nostri amici a quattro zampe, con particolare attenzione al controllo del peso e tanti consigli pratici per prendersi cura della loro salute anche a casa. Tutto questo grazie all'adesione di oltre 3.600 veterinari, un numero che cresce di anno in anno. E per animali domestici attivi e sani, nei negozi specializzati troverete tante promozioni ILS e un regalo utile, il DVD in gran forma, con consigli ed esercizi per mantenere il vostro animale in forma. Prenotate la visita di controllo gratuita sul sito stagionedellaprevenzione.it oppure chiamando il numero verde 800 18 96 12. Benvenuto nel servizio clienti di Banca Risparmio. Digiti il suo codice personale. Ora lo digiti al contrario. Ora aggiunga il suo codice fiscale e lo ridigiti. 7x4, 7x4, 28 per H. Radice quadrata? La radice quadrata, 3. Cerchi sfide più intelligenti. La settimana enigmistica. Per staccare la spina senza staccare il cervello. La settimana enigmistica. Accende la mente. Chiediamo scusa a tutti i proprietari di Infiniti FX. Ci dispiace che vi sentiate così osservati quando in coda al semaforo tutti vi guardano per poi sparire dietro la potenza del nuovo motore V6 diesel. Nuova Infiniti FX, il perfetto abbinamento tra un'auto sportiva e un diesel. Fino a fine marzo, Infiniti FX può essere tua a soli €499 al mese. TAEG 5,59%. Prenota un test drive su infiniti.it. Infiniti. Inspired Performance. Artisti in mostra. La nuova, grande, bellissima fiera dei creatori d'arte contemporanei. A Parma sabato 26 e domenica 27 febbraio e da venerdì 4 a domenica 6 marzo. In concomitanza con Mercanti in Fiera Primavera. Artistiinmostra.it. A tempo di sport. Marco da Milano su quel prato farebbe giocare anche Zidane, lo dice da milanista e ha tutte le ragioni del mondo, ma poi adesso qui stiamo ci stiamo divertendo, no? Ma sui giocatori che ci hanno segnato. Giocatori, ieri parlavamo con Andrea Zorzi perché ha avuto la bontà di seguirci, di paletti che lo sport ha piantato dentro di noi, paletti positivi in senso intesi come emozioni, possono essere i momenti più strani e disparati, così come i giocatori che ci hanno fatto venire i brividi erano quelli, per vari motivi, sono legati a noi, alla nostra età, neanche tanto al tifo, secondo me, neanche tanto alla maglietta che indossavano. Testimonia Marco da Milano, da milanista, io su quel prato, su cui secondo me potevano giocare Maradona, Van Basten, i miei preferiti, ma anche certamente il primo Ronaldo dell'Inter, Zidane, su quel prato si gioca e come. Filippo Maria Ricci da Madrid, ciao Filippo! Buon pomeriggio. Quali giocatori ti hanno fatto venire i brividi? I primi brividi con chi ti sono venuti? Beh, Cruyff da bambino, poi sì. Maradona e gli ultimi con Ronaldone. Ronaldone quello vero? Sì. Ronaldone quello vero che si è ritirato subito. Adesso Messi, via, adesso però ormai già... Ma no. Messi a me no. Cioè, ma no, non perché, lì è una questione, ripeto, di pelle, no? Ti piace quella donna o te ne piace un'altra? Lì è una questione animalesca, no? Di sensazione. A me con Messi non vengono i brividi, non so cosa dirti. No, a me vengono anche ieri sera, quel colpo di genio, quel gol così, lui piccolo che fa il gol con due colpi di testa, insomma mi emoziona ancora, era un po', insomma, ecco, dai tempi di Ronaldo diciamo che è l'ultimo, per me, diciamo, l'ultimo giocatore che ho visto un po' da tifoso, però no, Messi assolutamente, vale sempre il prezzo del biglietto, insomma, ti aspetti qualcosa. Tanto ci aspettiamo due grandi partite lì giù in Spagna, che ci racconterai, avrai modo di scrivere fiumi di inchiostro sulla Gazzetta, perché non capita tutti i giorni di vedere il Barcellona che deve rimontare, tanto per cominciare. Esatto, questo è contro l'Arsenal, che sta faticando adesso col Birmingham nella finale di Coppa di Lega. E sì, questa è una partita interessante. L'anno scorso sembrava abbastanza aperta, dopo l'andata che finì però 2-2 e Messi fece 4 gol, parlando, no? Tornando sì, al discorso sì, di prima, sì, non 1, non 2, non 3, ne fece 4. E quest'anno ci vuole un'altra impresa più o meno simile, perché l'Arsenal è migliorato, l'Arsenal è più squadra, no? Sembra pronta finalmente per rompere questo digiuno di 6 anni senza vittorie, e può dar fastidio a questo Barcellona che ha qualche difficoltà, anche se a me sembra che il Barcellona abbia anche imparato a soffrire, imparato a vincere facendo poco, perché ci ha sempre abituato, no, a fare moltissimo. Adesso secondo me sono in, come la partita di ieri sera, hanno sofferto per mezz'ora, poi hanno fatto questo gol e alla fine è finita 3-0. Sì. No, è una squadra, c'era un giocatore dell'Almeria, dice: no, quando giocano male vincono 3-0, se giocano bene 6-0. Come l'Udinese a Palermo, insomma. Il Real, tu hai la sensazione che il Real abbia mollato il campionato per andare dritto sulla Coppa? No, assolutamente. Ieri sera è stato veramente sfortunato, insomma. Infatti oggi non ci sono grandi critiche al Real Madrid o a Mourinho. Sì, lo accusano di aver tardato un po' a fare i cambi, perché comunque Kakà continua a non ingranare, ieri con Osil non sapeva bene dove mettersi. Però gli hai dato 6,5 sulla Gazzetta. Sì, perché secondo me ha fatto una buona partita, vuol dire, e non è, io non sono, per me non ha, cioè è il miglior Kakà che ho visto da quando è tornato, allora bisogna considerare questo. Il Real non ha mollato. Il Real ieri ha preso 2 pali, il portiere ha fatto 2 grandissime parate, ci ha creduto fino alla fine. Per me ha fatto un'ottima partita, e il Deportivo ha fatto un catenaccio veramente spettacolare. C'erano queste inquadrature dall'alto bellissime, in cui si vedeva proprio le due linee di 4 uomini, quindi sono 4 più 4, 8, più il portiere 9, a distanza di 8 metri, una dall'altra. Ma proprio lì fermi ai 30 metri, non di più, non, insomma è complicato, ci hanno provato in ogni modo, non gli è andata bene, però non avevano mollato assolutamente, e secondo me non mollano neanche adesso. Sì, poi a Madrid c'è anche lo strano caso del gatto che diventò cane, mi pare. Sì. No, attenzione però, il gatto a un certo punto diventa coniglio. Benzema da gatto a coniglio? Coniglio a cane da caccia? Un mezzo cane, sì, ha fatto 2 gol, già ieri ne ha sbagliato uno, so più o meno, però poveretto, anche ieri se non ha giocato, gli è andata male anche lui. A un certo punto, non mi ricordo, aspetta, una delle ultime partite, rivelazione del Pais, girandosi verso la panchina, gol sbagliato di Benzema, Mourinho dice: no, questo non è un gatto, è un coniglio. Non so perché lo odia, beh, però ha avuto anche parole buone. Io ho sentito l'altro giorno, ha detto: beh, però è cresciuto molto Benzema, è quasi diventato un giocatore di calcio. Come ho scritto l'altro giorno, sì, tante bastonate e qualche carotina ogni tanto. Sì. Filippo, ti chiedo ancora questo: un pronostico su invece la nostra partitissima di domani sera, Milan-Napoli. Io ringrazio il posticipo perché, ripeto, per l'ennesima volta continuerò fino a domani sera alle 20:30, partita 20:45, a vedere i gol di Van Basten, Maradona, Careca, Maldini, Gullit, eccetera eccetera eccetera. Tu come la vedi questa partita? Io dico che vince il Milan, perché sarebbe la giusta punizione nei confronti del Napoli, che è venuto qua in Spagna a giocare una partita per me importantissima nello sviluppo anche della società, nello sviluppo di quello che può essere il progetto De Laurentiis, e si è permesso di giocare senza Cavani, Maggio e Cannavaro, snobbando l'Europa League, che notoriamente il Napoli ha vinto quella quindicina di volte, è una competizione che loro dominano da sempre, e in Italia anche noi, figurati, no, le coppe europee quest'anno stiamo andando così bene come piovessero, sì sì. loro vengono qui e no, Cavani il miglior giocatore, perché hanno una partita quando? Il giorno dopo, no? Come nel basket che già si gioca tutti i giorni. La partita a giovedì, loro giocano lunedì e lui non fa giocare Cavani. Hai ragione. A me questo sembra un insulto anche proprio agli investimenti, ai tifosi. Sono lui, hai ragione, tanti tifosi. Hai ragione, però vedi, è il discorso che facevamo prima, no? Questa Europa League non la vogliono tutti nel momento in cui si tratta di dare lustro alla classifica. Visto come sono bravo, sono andato in Europa League, poi di fatto non la vuole fare nessuno. Però questo e questo è ciò che mi sta più sul gozzo, accade solo in Italia, perché in Spagna, in Germania, in Inghilterra, dove qualcosa con l'Europa hanno a che fare, no? Mi pare con le coppe europee, mi pare che arrivino discretamente in fondo, ebbene lì sta di pieni, e quella è la partita di coppa, non è la partita l'amichevole del giovedì. E io dico poi, solo per chiudere sullo sforzo, dice lui non voleva fare sforzare i suoi, no? Ma non si sono sforzati per rimontare contro l'Utrecht, la Steaua Bucarest, no? Non hanno sprecato energie per arrivare fin dove erano arrivati? Sì, sì, no, non fa. E allora le energie lì non servivano? Non c'è dubbio. Non è piaciuto assolutamente, soprattutto poi in un momento come questo, no, del nostro calcio in difficoltà. Metti caso che il Napoli rimaneva come ultima squadra in Europa, non era positivo per il Napoli? E poi tanto il campionato lo vince una squadra sola, il Napoli poi farà una fatica bestiale a vincere questo scudetto, se mai lo vincerà. E cosa ti resta? No, era una partita che tu vincevi. No, ma è come dire gioco in Champions League, faccio turnover per il campionato. Mi sembra una discreta pazzia. Anche se poi ho a che fare con i tifosi come Giorgio De Luca, che mi scrive che Cavani era molto napoletano, naturalmente, era molto stanco dopo la partita con il Catania. Certo. Vabbè, grazie. C'è Filippo. Quanti anni ha Cavani? Scusa, quanti anni ha? Non lo so, 22, 23, più o meno è molto stanco, 24, sì. Più o meno la nostra età, insomma. Digli che Cristiano Ronaldo ha giocato tutti i minuti in Liga finora, e ora forse adesso è un po' stanco, però ha giocato tutti i minuti disponibili della Liga. Un abbraccio, Filippo. A voi. Grazie, un abbraccio. Angelo Verona, buonasera. Sera. Sera, dica. Lei prima, poco prima della pubblicità, mi ha anticipato su Ronaldo. Sì. Sì, perché per me, da tifosi interista... Ho fatto come Bergomi, insomma. Sì, da tifoso interista mi ha veramente emozionato, anche perché ha riacceso la luce in un momento in cui l'Inter veramente non riusciva a decollare, e quell'anno lì ci ha fatto sognare, ecco. Abbiamo veramente creduto di poter vincere lo scudetto contro una Juve peraltro fortissima, con un Ronaldo veramente che ha spostato il livello degli attaccanti un gradino più in su, secondo me. Era semplicemente uno dei più forti giocatori della storia del calcio in quel momento. Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo tra le file nerazzurre, quindi insomma quello mi ha fatto veramente emozionare. Secondo me su quel prato che si diceva prima ci può stare anni tutta la vita. No, ma vede, io ho degli amici interisti che andavano a vedere il Milan degli olandesi, no, per il gusto di vedere quei giocatori. Io stesso andavo a vedere quel Milan, andavo a vedere Maradona ogni volta che potevo, per il gusto di vedere quel giocatore. Ho degli amici milanisti che andavano a vedere Ronaldo in quegli anni per la stessa ragione, quindi mi sembra che sia detto abbastanza tutto su questo. Giovanni da Firenze, grazie Angelo. Giovanni. Sì, ciao. Io insomma sono stato colpito dai discorsi sui giocatori a cui è legato la memoria di ognuno. E niente, io gli anni della mia scuola elementare mi trovavo in quegli anni ero in campagna dalle parti di Napoli, e che sono stato totalmente rapito da Maradona. E uno dei ricordi più belli che ho rotto talmente le scatole a mio padre, mi ha portato finalmente allo stadio, e posso dire di aver visto Maradona giocare, insomma. Sono davvero felice per questo. No, ma queste secondo me sono le cose che hanno un senso, addirittura a prescindere dalla maglietta che indossano, no? Perché lei è di Firenze e dice Maradona, mi stai dicendo di Maradona, Baggio, altro discorso, no? Altro giocatore che poteva giocare alla Fiorentina, alla Juventus, nel Bologna, nel Milan, nell'Inter, dove volete voi, era Roberto Baggio, quindi era uno che ti faceva venire i brividi. Se mi posso permettere di fare un piccolo paragone, ora in questo, insomma, in questi anni stravedo per Cassano. Certo, non se potrebbe parlare per ore, però ecco, vorrei dire che la cosa che forse mi colpisce di più è pensare, ora ho 31 anni, mi trovo a un passaggio un po' epocale per quanto mi riguarda, per cui i miei giocatori preferiti sono tutti più giovani di me. E questa è una cosa che infatti volevo... E, insomma, spesso ne parlo anche con gli amici, negli altri appassionati. Sì. Ed è una cosa strana che... Però ecco, mi faceva piacere. Poi arriverai a un'età in cui dirai: però alla mia età nessuno gioca più a calcio tra i professionisti. Questo sarà un altro passaggio epocale, caro Giovanni. Grazie a Giovanni. Ci fermiamo giusto al tempo degli aggiornamenti sul traffico. Pubblicità. È il momento di cambiare. Porta i tuoi risparmi in Kebank. Conto deposito ti dà un doppio vantaggio. 2,50% sulle somme depositate per un anno e in più gli interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 marzo 2011. Fogli informativi in filiale all'848-44-4488 o su kebanca.it. Kebank, la banca per tutti del gruppo Mediobanca. Strade in diretta. Sulla diramazione Roma Nord ci sono code per un incidente risolto tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare. Sulla raccordo Siena-Firenze ci sono rallentamenti per un incidente con 5 auto coinvolte nei pressi di Siena in carreggiata nord. Sulla 14 Adriatica si viaggia lentamente all'interno di un cantiere tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona. Mentre sull'autosole si rallenta per traffico intenso tra Firenze Certosa e Incisa in direzione di Roma. Ci sono rallentamenti dovuti al traffico anche sul tratto milanese della 4 tra Sesto San Giovanni e raccordo per Viale Certosa verso Torino. Le condizioni meteo infine: deboli nevicate sull'autosole tra Rioveggio e Calenzano e sulla 15 della Cisa tra Borgotaro e Pontremoli. Nevisco in Lombardia sulla 4 tra Grumello e Rovato e in Abruzzo sulla 24 tra Valle del Salto e L'Aquila. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda che impatto avranno le notizie di oggi sulle valute mondiali e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading sui CFD con IG Markets. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso a oltre 20 borse internazionali 24 ore su 24, offre notizie in tempo reale, un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sui CFD. IG Markets è il primo in Italia per il trading con i CFD. Demo gratuita su www.igmarkets.it. Speciale 6 nazioni. È il momento di buttare un occhio sul 6 nazioni. Oggi c'era l'ultima partita del programma della terza giornata, una terza giornata che ci ha lasciato un'altra sconfitta, come sapete, ieri con il Galles, poi c'è stato in serata Inghilterra-Francia. A proposito di Inghilterra, ve la do perché sennò poi mi dimentico. Balotelli a segno, ma il Manchester City fa 1-1 in casa con il Fulham dell'ex tecnico Mark Hughes, mai dimenticato dai tifosi e da una parte dei giocatori. Il Liverpool perde ancora questa volta con il West Ham, che era ultimo in classifica, e perde 3-1. Mi ha raggiunto Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Punto su 6 nazioni, qual è? Beh, è arrivata questa vittoria irlandese a Murrayfield, 21-18, 3 mete per gli irlandesi, l'ultima di O'Gara, mentre gli scozzesi hanno riempito il tabellino con i calci di Patterson e Parks, no Carlo, tanto per parlare tanto per far tre nomi di gente che col piede qualche punticino nelle 6 nazioni, nei test match e nelle competizioni internazionali di solito lo raggranella, per cui irlandesi che rimangono in corsa anche per la triplice corona, no? Che spetta poi alla squadra che batte, la squadra britannica che batte tutte le altre nel torneo, e la Scozia che rimane in corsa per il cucchiaio di legno con noi, l'appuntamento è il 19 marzo. Questa l'ho già vista. A Murrayfield, esattamente. Beh, devo dire che almeno per quello che si è visto finora, a parte la sfida iniziale con la Francia, gli scozzesi ci danno anche qualche motivo di speranza, perché non è che riescano poi a essere così efficaci, così come invece erano stati nei test match a novembre. Speriamo, come al solito, sulle disgrazie altrui. Ma ieri abbiamo fatto risuonare il cucchiaio di legno, già conosciamo bene quel rumore, insomma. Già ce l'abbiamo, ancora. Eccolo qua, arriva da lontano e piano piano. Però insomma, Murrayfield, vediamo un po' che succede, visto che questa Scozia, ecco, loro sì, comunque ce l'hanno la cassaforte dei punti di un Patterson, di un Parks, che al calcio sì, hanno percentuali mostruose. Intanto mi risulta, mi dicevi che una lezione, un'ulteriore lezione per gli azzurri è arrivata dalle azzurre. Sì, è arrivata una telefonata alle 4:30. Era una mamma di una giocatrice della nazionale che adesso abbiamo intervistato. Perché? Perché quello che non riesce ai ragazzi invece riesce molto bene alle nostre ragazze, perché la nazionale femminile ha battuto per 12-8 a Imperia il Galles, tra l'altro gallesi che avevamo battuto anche l'anno scorso in casa loro per la prima volta nella storia. E insomma, a questo punto è uno sport per signorine. È uno sport per signorine e diventa il dubbio è che non è detto che lo sia per i nostri ragazzi, no? Dunque, cari Castro Giovanni, Parisse, Bergamasco, Lo Cicero, sentite questa. È stata una partita molto dura perché abbiamo iniziato e loro ci hanno messo un po' sotto in realtà. Poi però abbiamo riuscito a reagire, abbiamo segnato e poi tutto il secondo tempo anche lì è stata molto dura perché le gallesi hanno cercato di segnare in tutte le maniere, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi, insomma. Quanto vale questo successo per il movimento del rugby femminile italiano? Beh, tantissimo, perché così possiamo far vedere che noi ci siamo e insomma spronare anche altra gente a iniziare a giocare e impegnarsi seriamente, insomma. Adesso non c'è il rischio che magari Lo Cicero, Paris e compagni vengano a chiedervi qualche suggerimento per raddrizzare il loro di Sei Nazioni? Chi lo sa, se dovessero venire noi siamo ovviamente pronti a dargli qualsiasi consiglio, ci mancherebbe. No, comunque a parte gli scherzi, anche loro ieri hanno giocato molto bene, purtroppo non hanno portato a casa il risultato, però insomma ce l'hanno messa tutta, mi sembra. Chi è Dario? Silvia Gaudino, il numero 8 azzurro, diciamo l'alter ego femminile di Paris, anche se non è il capitano, perché il capitano è la Zangirolami, giocatrice del rugby Monza. Tra l'altro portiamo anche un po' fortuna come Radio 24 alle ragazze, perché prima del Sei Nazioni abbiamo dedicato un reportage proprio al rugby femminile e oggi infatti sentendola dice ah sì per fortuna Radio 24 ci porta pure bene, meno male, insomma un pezzettino di questo successo è anche nostro. Quando non capita il contrario, vabbè. Ah sì, certo, non è colpa nostra le sconfitte azzurre. Settimana prossima pausa. Non perdiamo, sicuro. Niente, il cucchiaio di legno lo faremo risuonare nelle prossime occasioni, molto probabilmente il 12 marzo, quando al Flaminio arriverà la Francia. Sì. Ai ai ai. E lì è brutta. Dario, ci sentiamo dopo per parlare di basket. Io adesso vado a chiudere. Ah, Caterina Balivo è in galleria sempre, ci stiamo provando in continuazione. Ha promesso però tra una galleria e l'altra che nel prossimo weekend sarà con noi, spero di persona, al massimo via telefono. Torniamo subito. Cari Parma, sponsor della Nazionale Italiana Rugby, vi ha presentato Speciale Sei Nazioni. Ecco che torniamo e arriviamo, siamo in dirittura d'arrivo. Volevo fare altre due chiacchiere con un altro dei nostri corrispondenti stranieri su un altro dei temi della settimana. Vediamo se riusciamo dopo Madrid, Filippo Maria Ricci, a collegarci con New York e con Simone Sandri, ma credo di sì. Ciao Simone! Buon pomeriggio Carlo! Grande scalpore ha fatto, come ben sai, o come puoi immaginare, in settimana il trasferimento di Gallinari, perché l'abbiamo presa come qualcosa di personale. Ma come? Il nostro ragazzo viene mandato via da New York? Lo sport è questo, sì, soprattutto lo sport americano, non, e il Gallo è primo a saperlo. Sono d'accordo che ovviamente in Italia ha una certa valenza quello scambio. Secondo me in New York è stato uno scambio preso un po' con le molle, non tanto perché il nome di Gallinari è stato inserito nello scambio, ma per il fatto che è stato uno scambio, il prezzo pagato è stato molto alto per un giocatore che, non dimentichiamo, è un free agent, cioè sarà un giocatore svincolato a fine anno, praticamente tre titolari e mezzo più una futura prima scelta, un prezzo davvero alto, soprattutto alla luce dello scambio fatto dai Nets per Deron Williams. Paradossalmente è uno scambio che New York avrebbe fatto occhi chiusi, avrebbe preferito paradossalmente prendere un giocatore come Deron Williams adesso e cercare magari poi di prendere Carmelo Anthony in stagione. Secondo me da questo punto di vista la dirigenza newyorkese ne esce male, ma ne esce male soprattutto il proprietario Jim Dolan, che ha deciso di prendere in mano questa operazione invece di lasciarla a uno che ha esperienze da 40 anni nell'NBA come Donnie Walsh, per cui da questo punto di vista sicuramente ha meritato, secondo me, le critiche alla dirigenza newyorkese. Sì, è entrato in prima persona Dolan, ha fatto subito una telefonatina a Isaiah Thomas e non si capisce perché il diavolo continua a metterci lo zampino. Danilo invece è partito in sordina prima gara, poi subito un trentello nella seconda con Denver. Sì, dopo l'1 su 6 contro Boston e un'ottima difesa, tanto che parlavo con i giornalisti di Denver che conoscono solo le doti offensive di Gallinari e sono rimasti un po' sorpresi, secondo me sbagliando, perché comunque Gallinari ha un po' questo pregiudizio del giocatore europeo che non difende, ma non è assolutamente così. Dopo un inizio un po' in sordina, una partita eccellente a Portland, 30 punti, anche un pizzico di fortuna per Denver, che ha perso una partita che aveva già vinto, era avanti di 5 a 18 secondi alla fine, anche per lo sfortunato errore di Danilo dalla lunetta, avrebbe portato i Nuggets al più 4, invece ha sbagliato un libero dopo averne realizzati 15 consecutivi. Comunque sicuramente ci sono buone notizie che arrivano da Denver, perché Danilo si è conquistato un po' la simpatia già dei tifosi dei Nuggets dopo un paio di partite. E credo il posto in quintetto credo che non glielo toglierà nessuno. Grazie Simone, un abbraccio. Grazie a te. Grazie Simone Sandri da New York. Noi ci fermiamo qui, ma tanto abbiamo lanciato il primo filo, perché poi riprenderemo alle 8:30 quando andremo sul nostro campionato di basket. Dalle 8:30 alle 9, come ogni domenica, vi racconteremo tutto su questa giornata che stiamo vivendo in Serie A. Per il momento ringrazio Giorgio Drucchi in redazione e Valeria Bernardi in regia. Dunque ci sentiamo più tardi.